qualcuno qua? Ehi, già ci sono io. Buonasera. Saluto, buonasera. E allora, che si dice? Sì, che si dice? Mi ne sto tornando adesso da rinnovare la patente. E perché già scaduta ti era? E io allora? Adesso ha 65 anni. No, io l'ho fatta l'anno scorso. C'è tutto il 2018, penso quasi ogni 2 anni, ogni 5 anni. Sì, è la data del compleanno, scade tu, sì. Ah, Lucia, e allora già si è andato bene, beh. Non ci sono problemi, va bene. Da dimmi, non c'è né caldo né freddo, non piove, tutto nuvoloso. No, mia moglie ha detto c'è freddo qui. È uscita poco fa a portare il cagnaccio. No, carino, non c'è né freddo, no. Si sta benissimo, alla grande, però è nuvoloso, così. Io quando sono andato lì a rinnovarmi la patente stava piovendo, sono andato con l'ombrello, sono andato. Piovendo, piovigginando, aveva dato acqua, ma mi sa che non è fatto. Non lo giaccio, comunque già non ce n'è freddo, già sta bene. Altro che non c'è freddo, mi stava tremando. Ecco, cioè, ma tu sei anziana, capito? Quindi è per quello. Io e Natalino siamo giovani e non ne abbiamo freddo. E forse per quello, io me ne sono dimenticato di dire anziana. Vabbè, non è un'offesa, è così. Quando è anziana è così, capito? C'è sempre freddo, noi siamo giovani e ci abbiamo sempre caldo. No, la temperatura, non so quanti gradi ci siano fuori, ma comunque non è così bassa, dai. C'è questo vento, però già non è molto freddo, dai, ti ho spostato. Infatti io freddo non ne avevo quando sono tornato, perché sono giovane, però mi devi essere anziano. No, Claudio, ascolta, io soffro il freddo da bambina piccola, così che non dimmi per l'anzianità. Ah, ecco, così è, soffri freddo e anche mia moglie fa sempre freddo, ma quella notte deve venire i bappuradi. Ma non me ne vengono, si sa perché è sempre freddo. Perché sei cagato roba come te nonno. Poi, la moglie viene evaporata la notte, sempre il gatto va, fa capri. Tu immaginati che noi dormiamo con la finestra aperta d'inverno, ma ci bu. Chissà se mi va a via una borbonista qua. Ecco l'Italia, a casa ci sta molto bene, perché c'è sempre il riscaldamento acceso dalle 3 fino alle 10, però poi quando vai a coricarti, ehi, casa lì dove no? Ehi, fatti mia vaga, ma è stato un ridotto di cattivi, di gradi, di giro. C'ho la tuffa fredda, ma sono 17 gradi, tra io e ci abbiamo anche la tuffa fredda. Ah sì! Ehi, ah, ti ha portato la ricane? Sì, e tu guardava, l'ha già portato il cane, al vetto è che ci stanno dando dei boccoli, stanno dando. Quindi è meglio che vecchia un vianda, se lo vede raccogliere qualcosa ti tira al ventaglio. Via da te. No, io Filippo lo lascio solo nel giardino e basta. L'entrata non lo posso mollare a chi brinca innanzi a tutti. Lascia aperto. Non fa entrare più a nessuno in casa, va. Siamo un casino in questo cane. Cosa vuoi che ti dica? Qui tu abba con un taglio, un'etta, tranquillo. Però non mi fido, o sei maniaco e buccone e fa tirare di via iatta. Sta tutto la presa e me l'hanno ammazzata la gatta. Sì, l'ho sentito, Natalie, che te l'hanno avvelenata. Sì, ma tu ce l'indica perché il cane deve portare presto. Filippo ti lascia dormire finché arrivi. Se lo porti a Londra se non dice manco va. Eppure esce la sera alle 8, mio poverino. Esce alle 8, però lui non va a cercare perché alle 6 se lo svegli ti morsica. Capite? Vedo prima dei denti non si libeggia. Si devo che lo pigiama, si cultureggia, allora poi vuoi uscire. Sì, anche un cane signore, mica arrivi. bisogna che abbia, sono venuto arrivare. Prima ha fatto una mimola stamattina perché era troppo tardi. Dico, ma tu, e allora l'ho dovuto portare. Presto, io l'ho porto. No, Filippo, più tardi è meglio, una tali, capito? Non soffre queste cose, è abituato a piccolini. Aspetta un attimo, ho sentito qualcosa, che qualcuno chiamare, chi è? Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Come mi stai ascoltando lì Alghero, con quella radio che ti ho detto? Ehi, a giugno. Ehi, ehi. Va bene, ok. Sto parlando con Natalino, sicuramente non lo senti, vero? Lo sente Giuseppe Natalì? Sì, basso, ma lo sento, e lui che non sente a me, che non sono vasti qua, già lo sai, qua, che sono con quell'apparecchio della mutua, e non mi sentirà. Aspetta un attimo, aumento un po' per se mi sente. Ciao Giuseppe, mi senti? Devo abbassare però, sennò magari disturbo. Hai sentito? No, ma non è questione di radio. Ma perché non la lasci così la radio? Bellissima, molto forte. Cosa disturbi? Non penso che disturbi il microfono, Natali. Bellissima, tu. Amaro Mongao, tu, come ti ranzura, E sapete, guarda così com'è. È bella, corposa, bella, molto forte. Lasciala stare così, non penso che disturba. A 7, 8 va bene. Cosa 5? Lasciala stare così. Si disturba qui per lui, arriverai tu giù. Di punirla così. Li mando da te. Tu devi finire a me. Io a 2 anni e poco, ma ti è durato il dicevo del condominio mio. È 10 anni che quando mi vede abbassa la testa. Alle volte che l'ha tutto, la giù mai ci cura rubaro. Cioè, come fai tu? E quello è quello lì che aveva detto che le mie direttive avevano attirato il fulmine. Li corre di 2 mogliere ti hanno attirato, perché vedi che gente imbecille proprio. Come a Marco, no? Lì te l'aveva detto, i transistor che disturbano. Vabbè Giuseppe, non ti sente, cioè Natalino ti sente un pochino, dai, però tu non lo senti. Anche qua sa se c'è vento di libeccio, scirocco, non piove, non si capisce, un tubo, però già va bene così a noi, dai, non c'è problema Giuseppe, basta non piova, mi dia un paio d'ore per portare il cane, poi può anche diluviare, non mi interessa. Avanti Natalì. Se no si va da me e fai questo bavarugano. Non cammina proprio che di pesce, capito? Lui quando c'è la strada bagnata vuole andare sull'asciutto. Oppure nell'erba, ma nell'erba si bagna tutto per fare bisogni, lui non li fa nel marciapiede, è nella strada, li fa solo nell'erba, capito? Nella terra. È come te la iatta, Ed. È un cane particolare, come te lo badrono. Cosa vuoi dire? Il mio già li fa nel marciapiede. Io ho il coso delle bustine attaccate al guinzaglio, raccolgo e butto nel cestino. Magari, no, lui proprio niente, sta nell'erba, o nella terra, capito, ma nel marciapiede a volte fa un po' di pipì, se no niente, vuole portarlo proprio, ti porta dove c'è l'erba, capito, nel giardino comunale oppure nel nostro, lo mollo qua dentro, allora lui è sereno, vabbè. La Tappignana non si è sentito, Gianni, Giulio, non si è sentito nessuno. No, negativo, non si è sentito nessuno qua. Ma qui ci sono gente delinquente che butta i bocconi in terra, cazzo, tutto, Corso Trinità e Sassari Vecchio pure, bisogna stare attenti. Se mangiano qualcosa la vedineggia, cazzo, il cibo animale. Lo so, quando la gente non ama gli animali non ama se stessa. Hai capito Natalino? E ieri poi non sono entrato perché c'era la partita alle 6, c'era la Juventus. È finita che erano le 8, ho portato il cane e poi le 8 e mezza abbiamo cenato, quindi no. Non ho acceso. Oggi sono a casa. Ci siamo messi un po' in radio, ma le 6 e mezza da mangiare a lui, poi le 7 e mezza l'ho porto, insomma. La giornata è finita, dai, non c'è problema. Avanti Giuseppe, ho capito, certo che sì, però uno che il cane è naturale mangi l'erba per purificarsi, l'altro è che tu a un animale le metti un boccone avvelenato. Il cane purtroppo è cacciatore, da terra qualcosa, o la lecca, il mio non mangia niente da terra, la annusa e basta, poi non la tocca. Però il gatto, se tu le dai un bocconcino prelibato, lui se lo mangia, e quindi come è successo al gatto di Natalino, che gliel'hanno avvelenato. All'apporto ci doveva avvelenare Maravetto, e prendi Natalino. E infatti poi non usciva mai questa gatta, è uscita 5 minuti, sono sceso giù e l'ho trovata in agonia, poverina. Qua, ho preso un cazzo. Vabbè, quando c'è un animale che vive a casa, esce anche così volontariamente, che tu non te ne accorgi, scendi per prenderlo e lo trovi agonizzante, è chiaro che ti si girano le balle, no? Capito? Per quello te l'ho detto. Cavi rapporto dove esci, maledetto. E qua lo c'è quanto ne hanno ammazzato di gatti. Qua ce n'è un mare, il condominio nostro è pieno di gatti. Abbiamo sterilizzato tanti a nostre spese, li curiamo e li stanno tutti dentro il nostro giardino perché vediamo da mangiare. È uscito anche un articolo nella Nuova Sardegna, capito? Siccome erano troppi, andavano gli altri condomini a sporcare, a fare, qualcuno ci ha preso la briga di avvelenarli. 3 o 4 li hanno ammazzati, maledetti. Allora Giuseppe, che si dice? Alghero ha detto che c'è tempo brutto. Vabbè, piano piano già arriva anche il tempo bello. Sì, Natalino, la lanterna in corso Trinità, perché l'hai vista? Lui è 50 metri più avanti del mercato, in corso Trinità, proprio 50 metri più avanti a destra del mercato. Sì, ma digli che ce lo basta l'antenna. Sì, ma Giuseppe, c'ha un'antenna precaria come la tua, tu ce l'hai attaccata al tubo dell'antenna della TV, tu ce l'hai in facciata che abbiamo dovuto fare le scimmie con Massimiliano per montare quell'antenna, però dentro sasso riesce bene, ma tu non lo senti perché sta usando 3 watt, capito? Perché come te disturba la TV e quindi usa potenza bassa bassa, però se aumenta lo senti benissimo, perché lui a te ti riceve, c'è un baracchino che è mezzo sordo, però ti riceve, basso ma ti riceve, capito? Perché tu stai usando più potenza di lui, tu sei a 10 watt liscio, magari attaccato, lui sta usando proprio 3 watt qua, è 9,20 con 3 watt, figurati, c'è un segnalone qua quando esce a potenza proprio della radio, insomma, dai, oltre i 3 watt, capito Giuseppe? Emo, va bene, attenzione Marco, Lino, Condor, tutti fasciati, va, Rugavo è fasciato, non vi vede a un'occhi, e mi ha detto pure che è zoppo, quello è perché la notte ti metti a fare il pipistrello, a stare da una tenda all'altra, te l'avevo detto perché devi a testa a terra. C'è stato un break sul canale 10. E dove sto break? Avanti il break. Io non tengo nulla. Non senti nulla, Cla, evidentemente perché questo è basso di radio, e forse non lo senti per quello. La radio è bassa, negativo, incomprensibile. Ma così niente, vengo io. C'ho 2 di QRM e 2 mi è rimasto. Aspetta un attimo, Natali, dai, che da mangiare il cane. Arrivo subito. E io. E a me mi sta arrivando bene, evidentemente siamo vicini adesso. Poco fa è di Saturo. E allora siamo praticamente vicini, è per quello che mi arrivi così. Però l'altro amico non si sentiva, facciamo una prova sul 34, possiamo un attimo, non è sul 34, dai. Giuseppe, mi senti? Aspetta, arrivando. Via. Eccomi qua. Sei Musina Oghe. Ma te l'immagini questo ratta pignara, non si è fatto sentire, ragazzi. Gli avete l'ottia, lascialo va, vuol dire che non ne ha voglia di parlare, parli con Muro. Con Muro lo facciamo parlare. Allora, con Muro parla lui. Deve essere uscito per le 2 cosette. Sicuramente. È sempre un macchinone, la gita l'aria. A chi non le hai rubato? Lui a Briedo e Sarraedo la gira. È amante dello kebab, perché è tanta carne scaduta. Sì, grazie, io non avevo mai mangiato un figlio. Guarda, il kebab buono è al Tebek, perché lo fa la genuina riprova e lo porta già pronto. Ok, tutta la carne, le hamburger, tutto da Plague arriva, la roba di Macron arriva, tutta la fuori, è tutta roba congelata, ma non è congelata a mangiare questa buccaria. Poi roba così, mamma mia, io non ne ho mai mangiato, veramente, di kebab non l'ho mai manco assaggiato, veramente. Ma è buono, se è fatto bene, genuino, sì, sì, io lo sto assaggiando adesso che l'aria è alta e bella. La macchinona a me non mi ha mai portato né un panino né mai niente, perché è tutta roba congelata. E infatti, lo sai che usi al McDonald's? Ti farò il kebab col pane congelato, già che si sia fresco. Il kebab lì di Monserrato lo fanno con il pane pizza, lo fanno davanti, capito? C'hanno il pane pizza già pronto, che fanno i panetti, te lo fanno già pronto. Lo fanno davanti, lì c'è tutta roba congelata, tutta roba schifosa, che fa male. Ah. Io andavo da Renato a mangiare i panini quando ero giovane, ma va, tu già so un anno che non ti so più andato, ma esiste ancora Renato, quello che faceva quei panini enormi lì a Roma. Sì, sono i figli, Franco e Alessandro, che sono come fratelli con Ilaria e Mario, sono sempre in pari. Infatti ogni tanto Ilaria quando c'è lavoro, se c'è le 10 passa e lo porta sempre a casa, tanto non ne fate mai bagare. No, vai, i panini del Thai Break o del Tanity sono molto meglio di quello di McDonald's, perché il pane è pane fresco, c'è le focaccine, c'è il pane pizza, c'è tutto. Il pane del Mac è tutta roba congelata, non hanno niente loro di pronto, capito? È tutta roba che arriva ai grisacchi, ma mia figlia ci ha fatto quasi 10 anni, quindi te lo dico con molta certezza, capito? Anche i bambini li portano lì a mangiare un panino, fa carità. No, meglio roba fresca. Cos'è questo Thai Break o class? A Monserrato, dove c'è la Conan, lì sotto, tutto all'ingresso, fuori, dai, c'è da fuori, ma è grandissimo, enorme, sta lavorando da Dio, adesso stanno facendo l'H24, 24 ore aperto, c'è il turno anche di notte, da mezzanotte alle 6 del mattino, figurati. Si mangia molto bene, anche la pizza è molto buona, capito? No, buona. L'aria è Renata, c'è molta più serietà, anche molta più pulizia, molto più ordine, ma soprattutto il mangiare è molto più genuino. McDonald's, lui, lascia perdere. Ah, lì sta lavorando adesso tua figlia? Sì, lei è lì, è già più di 2 anni, è lì, ha fatto il passaggio, perché uno dei soci è il socio del McDonald's, quando hanno aperto lì 2 anni fa, hanno chiesto chi voleva il trasferimento, l'aria manco io le parlo, capito? E l'hanno spostata lì, a volte sta giù al Tanit, anche a Predanieda, lì dai, alla Santa Maria, al Tanit, lì c'è il Thai Coffee, capito? Però sempre il gruppo Thai Back, e poi c'è a Monserrato. Io capisco, ma sono mai andato, la verità? No, io da quando c'è mia figlia 2 o 3 volte sono andato, la verità, a mangiare, si mangia molto bene, però la maggior parte è quando voglia proprio mangiarmi un panino come Cristiani o una pizza, me la faccio portare da lei. Poi c'è un ragazzo adesso che fa anche servizio a domicilio, quindi chiamo e me lo faccio portare, ma ti ripeto, perché la roba è buona ed è genuina, quando tu già fai fare un bel panino col pane pizza o fai un cartone, altro che un panino a 5 euro del McDonald's, se un paninetto lo culo mosso viene più. Che fissato andare queste cose a mangiare un kebab in chili, mamma mia. Io non ne avrei mai mangiato, già lo kebab non ne mangia che roba di pura, non si sa mai cosa si pone nei treni. Natalì, vai a Monserrato e mangi il kebab, te lo fanno davanti con la piadina, ma tu una cosa squisita, veramente molto buona, se no glielo chiedi col pane pizza, non vado da Danate, portala lì, portala, ma al McDonald's lascia aperto. Sì, fa. Se vado, vado lì, adesso che me l'hai detto. Sì, poi c'è l'aria quasi sempre. Un franco a cena c'è quasi sempre lì, adesso c'è un paio di giorni di ferie, dovevamo spiegare appunto quelle pratiche che della casa che ti ho detto, infatti stamattina ero prima in banca, della mia, la sua, abbiamo fatto un paio di transazioni, c'è un po' di documentazione, ci abbiamo tolto a mezzo ai piedi perché è libera, se no l'aria sta facendo quasi tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte, arriva a casa a mezzanotte e mezza, l'una, adesso poi dal prossimo mese credo che due volte al mese le aspetti anche a lei da mezzanotte alle 6 di mattina. Di notte è pesante, mamma mia. Ma per un traffico, vabbè, c'è la via giurata, insomma, io sono organizzato, c'è un bel traffico, stanno lavorando tantissimo. Stanno lavorando tantissimo, capito? E quindi hanno deciso di fare anche le 24 ore, poi lei ha detto cosa lavora a quel posto. Col posto auto che c'è, parcheggio, c'è musica vivo, H24, non so cosa vuol dire, una cannonata. No, vabbè, non è sola, sono quattro per turno, quindi da mezzanotte alle 6 sono in quattro, più c'è la guardia giurata, più c'è altro personale addetto, insomma già sono organizzati bene. Sì, specialmente di notte è meglio che ci sia qualcuno che controlla, non si sa mai tutti i delinquenti che ci sono in giro. Va bene, Natali, i delinquenti ci sono tre parti, purtroppo i delinquenti ci sono, esistono, esisteranno sempre, però già li mettono, già li mettono a posto, vedrai, che non li fate del casino. C'è uno ha detto alla sicurezza, sono organizzati bene. Sì, è andato, sicuramente non c'è a casa sua da Tappignara, starà prendendo delle cosette lì, dal McDonald's o da coso, da Lidl, lui va da Lidl. Sino a Trafugendi. Allora, gli piace adesso a quest'ora mangiare una bella pizza con ditta, pollo con le patate, arrosto, capito, le olive, poi il gaggio a cabaterra che ha mangiato. Poi si guarda Bonolis, ma la figlia d'Andon che c'è Bonolis, ma l'ha toccato il gatto, non lo posso vedere. Ah, ma adesso siamo messi a piedi Bonolis, non lo guardo io. Poi guardo quelle cose, come ho detto anche l'altro giorno, guardo qualche volta quando c'è Gerry Scotti o Carlo Conti, che così, ma è difficile, se sono a casa la sera me ne sto qua, io c'ho la TV, mi guardo qualche partita, ieri c'ho le partite, stavano le partite, poi alle 8:30, alle 9:15 mi ho guardato Barcellona-Cecci, adesso è tutta la settimana che ci sono partite di Champions, i recuperi di Serie A, insomma, c'è un po' di sport, infatti ieri sicuramente non è entrato Marco Giulio, e niente, ma mi andando vai da Bonolis, passa via. Fa rimanere male la gente quello, boh, sarà sta cena, muro, meno, lo pongo in dubbio, ma... No, Natalia, c'è tutto preparato, c'è un copione da seguire, capito? Non è possibile che lui si possa comportare così con le persone del pubblico, è tutto preparato. Come vedi scende anche sempre una valletta dal pubblico, insomma, ahimè è tutto preparato, no? Non c'è di cose non preparate in TV, Natalia, è impossibile andare lì e fare l'ebete, capito? Vanno lì perché sono preparati, sono tutti pagati per fare macchi, tutti pagati per parlare, anche quelli che fanno fare gli opinionisti da quell'altra zoccola di Barbara D'Urso. Vedete che lei continua a dire i miei ospiti sono qua per così senza niente, ma non vi fece lì, a chi non vi vengo in Chivi a fare un buffone, capito, per niente, ci hanno un gettone di presenza che è un stipendio al mese, perché se tu vai a vedere ci sono sempre le stesse persone, cazzo, io oggi andato tutti lì in Chivi a rompermi le balle con che cazzoccola. Sì, infatti, aspetta un attimo che hanno suonato qua. Via. Oh, cla, devo chiudere perché è venuta gente. Oh, io lo metto. E beh, è stata lì. Se no, Claude. Ehi, ciao Gianfra, stavo parlando con Natalino. Sì, io ho capito, mi hai soccontrumato a palazzo. Allora, sto bene, finito i grandi lavori. No, più che finiti li abbiamo sospesi. In attesa di un po' di risorse. Sto facendo, bilanciando le cose, Gianfra. Tanto te l'ho detto, fretta non ce n'è, quindi piano piano. Sto prendendo il vialetto, lo menazzano il vialetto. Hanno quasi finito, eh. Le telecamere nel cancello e il citofono. Su quella parte lì è tutta finita. Ok. Quando piove è difficile, quando c'è anche questo tempo, poi ovviamente quando c'è tempo bello non ci sono le risorse, allora è un macello. E ci vogliono tanti sacrifici per fare certe cose, purtroppo. E già fa, io ci sto mettendo per la mia buona volontà, sacrifici li ho fatti per 40 anni, quindi adesso buttiamo tutte le risorse qua, con la vecchiaia. E poi quello che sarà, se è avanzata qualcosa, se lo farà mia figlia, io altro non posso fare. Sono ancora in attesa di vendere qua, se no mi sarei già trasferito e finito tutto, però ci sto andando cauto Gianfra, tu sei già passato, quindi lo sai, io tutti i mesi, 4, 5, 6, 7, anche a 8 sono arrivato. Quindi insomma cerco di bilanciare. Adesso quest'ultimo lavoro mi ha costato quasi 4.000 euro, quindi perciò piano piano mettiamo a piedi, poi appena vendo qua finisco le cose che sono da finire, ma diciamo che all'80% è quasi tutto fatto. Sì. Troppo. È così, bisogna andare piano. E io ho convinto che la residata sembrava che andava tutto bene. Magari poi, come è capitato anche a me, vanno in banca e le dicono nisba, perché anche quello succede. E quindi anche tu ovviamente sei fregato. Già fra io quello ho calcolato, però qua non mi manda via nessuno, quindi fretta mio. Anche quello calcolato, infatti due sono rimasti così, uno mi ha chiamato proprio lunedì mi pare, martedì o giovedì, e mi ha detto che non gli hanno concesso, gli hanno bocciato il finanziamento perché sembra ci sia qualche cosettina che abbia qualche problemino risolvibile, però mi ha detto devo aspettare perché insomma può fare una dichiarazione per l'altro lato, faccia quello che voglio, no, non ho problemi, poi non parli con me, parli con l'agenzia perché io non posso neanche dirle va bene, non va bene, vedi accordi, ho preso l'agenzia, parli con l'agenzia, io ne sono fuori, no, non mi interessa, ma quando mi chiama l'agenzia mi dice tutto a posto, venduta, domani andiamo a fare l'atto, allora io per me la casa è venduta, ma così a parola no. Non ce n'è, capito? Uno ha detto, aspettami, uno che conosco, aspettami, dove ci vede i soldi, qui là, sì, a te sto aspettando, se viene uno che se la compra io la do a casa, non è tutto sempre, capito? Però, piano piano, un po' di fiducia, neanche un periodo un po' fermo, ecco le case, qua ce ne sono due, costano di più della mia, perché una è un po' più grande, l'altra è uguale, però io la sto dando a un prezzo abbastanza ragionevole, quindi ho molto più contatti rispetto agli altri, però piano piano. Infatti, purtroppo, quando devi vendere, c'è sempre il due, uno che vende, uno che compra, e se quello che compra poi non hanno il finanziamento, è un macello. Purtroppo così. Troppi lavori precari ci sono in giro, quindi anche se prendono stipendio, vanno in banca, le dicono ma non è un posto fisso, ma quindi non si arrischia. Molto i contratti stanno guardando il reddito delle banche. vogliono affidabilità, purtroppo è così. Io sono direttore della mia banca e siamo molto molto amici, a volte mi dice cose che non mi dovrebbe neanche dire, però purtroppo esistono, capito? Cioè c'è gente che blocca il mutuo e poi li vedi in macchina nuova, una cosa assurda, assurda veramente. E questo che non gli hanno dato il finanziamento è perché se mesi fa ti hai comprato la macchina nuova, come fai ad andare a chiedere adesso un mutuo per comprarti la casa? Ti compravi prima la casa e poi la macchina te la compravi dopo. Con due finanziamenti o anche con un finanziamento fanno il calcolo, non ti danno, a meno che non hai uno stipendio altissimo, ma anche con 2.000 euro, con 1.800 euro, e c'è un altro finanziamento di 200-300 euro, non ti date niente. E i calcoli sono qui. Perché c'è il tenore di vita anche che lo calcolano, capito? Cioè, con cosa vivi tu? Cioè, c'hai 300 euro di rata di macchina, 500 devi pagare di mutuo, siamo già a 800. Ti fanno i calcoli, i conti in tasca ti fanno. Beh, oramai io rischio non ci fa nessuno, è proprio così. La maggior parte delle persone poi c'ha finanziamenti in atto e già lo vedono subito e tagliano tutti i ponti di corsa, soprattutto quando non c'è un reddito certo. È così. Ma c'è anche Natalino. Sì, è andato a aprire la porta, ma sicuramente ha ammazzato qualcuno aprendo la porta, perché non si è più sentito. Mamma mia, sarà quello là che penso. Dell'antenna sicuramente la porta l'ha fatto pure. Se è quello dell'antenna, stai tranquillo che non ho sentito spari da qua, ma sicuramente qualcuno ha preso colpi. Vabbè, tanto, cosa succede? Cosa possono fare? Erano 10 anni, magari, quindi a bancali facciamo bene, c'è l'assistenza sanitaria, non devi fare fila neanche, sotto fare qualche analisi, quindi meglio di così. Scusa Gianfranco, hai scattato il contattore, qua la sera, forno, capito? Scaldabagni, lavatrici, tutto acceso. Deve girare l'economia, deve girare in qualche modo, bisogna spendere di più soldi. Ma cacchio, ogni volta la cosa, le radio sono giù, una ne ho accesa, ho il 140 acceso, il buco, il resto è tutto spento, è la colpa la mia, capito? Poi vai a vedere, c'è scaldabagni attaccato, interruttore della lavatrice che non lo spengono mai, accendono il forno, ma cosa vuoi? È così, ma io, vabbè, tra l'altro, non c'è una novità, niente, il traliccio di 20 metri ancora non te l'hanno portato. Guarda, non ci stava nell'articolato, perché è da 20 metri, come hai detto tu, è l'articolato da 13,50, quindi non ci stava. Ma manco ci mi baghi Gianfra, guarda. Se avessi avuto l'occasione che questa casa la comprasse un radioamatore, le regalerei anche le antenne, guarda, così non tolgo niente. Ah, non mi avevi detto che il traliccio te lo portavi su la macchina rossa, che già c'è stato, sulla capotta, ci mettevi l'imperiale vecchia maniera. Allora, a lei di ho più, ma io già l'ho fatta una cosa del genere. No, già fa. Lascia perdere, io non vedo l'ora che arrivi il tempo bello, una bella mattinata, perché prima ero al lavoro, quindi non avevo tempo, capito? Ma come arriva il tempo bello, inizio piano piano, con calma, mi faccio una mano prima a abbassare il sistema. Una volta che ho il sistema abbassato, non ho bisogno di nessuno. Inizio piano piano a sganciarmi tutti i cavi, a recuperarmi i cavi, a piegarli, metterli tutti in mansarda da parte, poi con calma me li porterò via e inizio a smontare tutto, già fra tutto. Capito? E quando sarò là, farò prima un sondaggio se ne vale la pena montare qualche cosetta giusto per fare due chiacchiere. Diversamente non piace nulla. Purtroppo. E così. E poi l'ho fatto andare a tavolo, un caffè, eccetera. Ma in effetti il gioco non va alla candela perché non c'è il tanto, dai, potrebbe dire. No, non ne vale la pena. Sì, è così. No, ma infatti non ci sto manco pensando a prendere come sono arrivato qua, la prima cosa che ho fatto, ho montato le antenne, poi ho fatto piazza dei mobili. Ma manco pensando, ci sto già fra proprio. Stai tranquillo che non ci sto manco pensando. Capito? Metto tutto a parte, fortunatamente c'ho anche le scatole delle antenne che non le ho mai buttate, rimetto tutto al suo posto, pian pianino là c'ho. Ancora non è fatta, ma comunque c'è lo spazio per fare una casetta prefabbricata, che ho già chiesto il preventivo lì alla Proget, una casa prefabbricata, piccola, dove la userò a casetta per gli attrezzi e imbarazzi, metto tutto lì dentro, boom, finito. Se poi, ti ripeto, non vale la pena che c'è ancora un po' di passione rimasta, qualcosa alla piazza, se no già fa. Tieni conto che io ho già fatto fuori la metà della roba che avevo, tutte radio nuove. Ci ho tenuto un HF, il Pro 2 e il 910H. Il resto ho dato tutto, ce l'avevo 4 HF io, belle. Questo in partenza, infatti lo sto usando per vedere se ha problemi, ma è perfetto, 140, e metterò il mio misero 440. Ma per il resto ho venduto tutto già fra, davvero, non sto scherzando. Guarda, se tu vai su subito, c'è ancora qualcosa, manca il 275H, e quello l'ho venduto. E il resto ho già tolto un po' di roba tramite Massimiliano, perché no, non mi interessa. Mi interessa tenere 4 HF, 4 VEU, 4 di quelli, 4 di quelli altri. E poi basta così. E guardateli. Tengo una e basta. Boh. Con la speranza che riesca ad usarla, se ne ho voglia, se no rimarrà lì già fra, no? Non mi interessa più niente. Io devo fare un pochino di stand by perché tra poco mi chiamano a cenare, io ce l'ho presto e quindi approfitto. Siamo fra, piena libertà, grazie delle chiacchiere, io mi 7:30 me ne esco un po' col cane, qua sono tutti i fornelli, c'è mia figlia a casa, quindi stanno cucinando, preparando la cena, appena è pronto vado anche a cenare. Grazie alle due chiacchiere, già ti tengo aggiornato, se già ti tengo aggiornato, ok? Ciao, buona cena, buon tutto. Ok, salutami anche Natalino, ciao. E io, se rientra te lo saluto. Ciao Giuseppe, ciao, rimango in stand by e dopo vado a portare il cane. Ciao a tutti.